rigido astro del firmamento musicale. E io adesso suono un po' di musica. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sabato 7 aprile 2007. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Fan Club. Zurigo, Svizzera. Guardiamoci in faccia. Stringiamoci la mano. Gigi D'Agostino. Un suono sano. volete mandare le vostre dediche, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino. Musicista, canzone. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. Fermate. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Il cammino di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. We'll be right back. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Gigi D'Ag è un suono puro, col suo tamburo stai sicuro. Oh già già. Ascoltatori e danzatori, chiamate i vostri genitori. Dirti, va, qui c'è musica che pesta. Suona il maestro e roba onesta. Tanto poco. nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente è vino. L'uomo vino è e come Aristotile Cottile chiaramente pura nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Che mi scassa. sensazione attraverso il mio racconto musicale. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie.

mica una radio a capocchie. Ciao, sono Gigi D'Agostino e altre storie. Pinciare un brano muy incassato con la casa che te scassa. I never did fact.

Domenica sera, 8 aprile 2007. Alchimie Pasquali. Alchimie Pasquali. Presso la discoteca Altro Mondo. Rimini. Dalle ore 22 alle 2. Suona Gigi D'Agostino. Lento, violento e altre storie. Dalle 2 in poi, in console DJ Provenzano. Per informazioni visita il sito www.gigidagostino.com ed entra nella sezione del forum dedicata a questo evento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Ci sentiamo domani. Grazie.